Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Sentite anche un po' il mio tono di voce ovattato, segno di una trasferta. Oggi siamo alla Fiera di Milano, alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Radio 24 è la radio ufficiale di questa importantissima manifestazione dedicata appunto al settore turistico, un fiore all'occhiello per il nostro paese e per tutte naturalmente le persone che richiamiamo dall'estero, ma anche perché è un settore che movimenta molto l'interesse delle famiglie italiane. Noi di queste oggi parleremo. Come si stanno attrezzando le famiglie italiane per le vacanze 2011, considerato che la crisi ancora morde, che molte località molto gettonate dagli italiani hanno destato un po' di preoccupazione negli ultimi mesi, come la Tunisia, l'Egitto, fino a pochi giorni fa sconsigliato dalla Farnesina, invece adesso destinazione riaperta, con le dimissioni di Mubarak le agitazioni sono diminuite. Ma appunto, anche alla luce di tutto questo, come sono orientati a muoversi quest'anno gli italiani? Radio 24 oggi inizia il suo percorso nell'edizione 2011 della Borsa Internazionale del Turismo. Oggi Salva Danaio si parla di questo argomento. Faremo un viaggio, purtroppo davanti al microfono è solo virtuale, tra le proposte commerciali che potrebbero essere più in voga quest'anno per accontentare le famiglie alle prese con qualche problema di budget. Quindi le proposte dei tour operator formato famiglia. Ci sono tante iniziative proprio per aggredire la crisi che gli operatori del settore hanno adottato. I viaggi senza fronzoli, ho letto anche questa definizione. I viaggi su misura, le crociere che sono comunque sempre molto apprezzate e vedremo appunto su che budget si possono orientare le famiglie quest'anno. D'altronde la BIT è una vetrina di dimensioni enormi per gli operatori del settore, ma anche per il consumatore finale. Allora vedremo le proposte più gettonate di questa edizione per le famiglie. Abbiamo un bel parterre di ospiti che abbiamo schierato questa mattina. Saluto e ringrazio Leonardo Massa, Country Manager Mercato Italia di MSC Crociere, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Nardo Filippetti, presidente di Eden Viaggi. Oggi qui alla mia sinistra, presidente Filippetti, buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Ed Enzo Carella, amministratore delegato di Uvet Travel Network, quindi benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, io vi sottoporrò anche alle domande e alle considerazioni degli ascoltatori, 800 24 00 24. Peraltro, insomma, mi chiedo se febbraio sia un mese, come dire, utile per cominciare a parlare di vacanze estate, magari per l'estate direi di sì, perché molti tour operator peraltro prenotando con grande anticipo offrono anche degli sconti considerevoli, però bisogna capire se hanno un po' la testa le famiglie italiane per pensare con serenità a questo momento che potrebbe, che è il momento appunto della nostra, delle nostre ferie, quindi l'estate è un momento di santa calma. Allora, volevo però partire, perché tra l'altro questo argomento ovviamente è il tema dominante di questa prima giornata della BIT, della questione egiziana, della questione tunisina, perché da quello che capisco, comincio con Leonardo Massa di MSC Crociere, avevate un po' riorganizzato le vostre crociere verso queste destinazioni, avete ripreso regolarmente tutte le tappe che si facevano appunto nella crociera tradizionale verso queste aree? Noi, appena scoppiata la crisi, abbiamo deciso di saltare gli scali in Egitto. In questo momento solo nelle programmazioni invernali, cioè nel Mediterraneo inverno, avevamo navi che toccavano solo Alessandria, proponendo uno scalo alternativo, quindi non snaturando assolutamente le 11 notti in crociera, ma di fatto cambiando solo la destinazione. Adesso siamo in attesa che i nostri corrispondenti locali ci diano l'ok totale per garantire quella che è una priorità per noi, la massima sicurezza ai nostri passeggeri, per ritornare a scalare in maniera regolare sia l'Egitto, che era destinazione di queste settimane, che la Tunisia, che sarà destinazione primaria da aprile in poi. Allora, andiamo al tema della crisi che morde. Io ovviamente mi faccio sempre una chiacchierata preventiva con gli ospiti di Salva Danaio. Io prima dell'inizio della trasmissione, chiacchierando un po' col presidente di Eden Viaggi, Nardo Filippetti, dicevamo insomma parleremo anche di crisi, di quanto morde ancora nella scelta delle vacanze per le famiglie italiane. Presidente Filippetti è saltato sulla sedia e mi ha detto subito: ma di che crisi stiamo parlando? Ho capito male io oppure insomma dobbiamo... No, perché ci sono tante crisi, non appena annunciato, non ultima quella dell'Egitto e della Tunisia, che è una crisi della destinazione rispetto agli ultimi eventi che si sono vissuti, crisi economica delle famiglie perché hanno un reddito non sufficiente disponibile perché le loro vacanze siano come magari le avrebbero desiderate o fatte anni diversi. Siccome quindi avete spezzettato in tante la crisi, è una radio economica per crisi, non so esattamente di che cosa si volesse parlare. perché se vogliamo parlare di aziende singole, ci sono come sempre durante le crisi quelli che crescono e quelli che salgono. Fortunatamente Eden Viaggi si trova in quella collocazione di coloro che crescono, che nel tempo e negli anni hanno sempre dimostrato grande non solo affidabilità ma vicinanza al cliente, a cercare di dare non solo una consulenza alle agenzie di viaggio che sono i nostri primari clienti, supportandoli in tutto per tutto con servizi. E poi sicuramente il prezzo a volte può fare la differenza, ma noi riteniamo che non sia il prezzo la vera differenza. È vero, la vacanza è diventata un bene, con tutto rispetto, di tutti, un bene necessario, un desiderio, una necessità per potersi rigenerare dopo magari un anno di stress. Una vacanza di una settimana non sono i 50 euro, penso, come dicevo prima, con il rispetto dell'economia familiare di tutti quanti, quelli che facciano la differenza. E l'importante è non sbagliare la vacanza e affidarsi ad operatori o agenti di viaggio seri, quelli che danno consulenza, piuttosto che non magari vendere solo in funzione di un prezzo. Enzo Carella, amministratore delegato di Uvet Travel Network, tra l'altro la vostra società si occupa anche molto, se non ricordo male, di incentivi aziendali, quindi c'è differenza fra l'ambito famiglia e l'ambito aziendale, per esempio? Ma il nostro è un osservatorio privilegiato, composto da circa 3.000 agenti di viaggio distribuiti sul territorio, che si occupano di servizi vacanza e servizi di mobilità per aziende oltre a incentive, e ci restituisce un osservatorio abbastanza realistico, cioè ci sono tre grandi fronti in questo momento aperti sulle vacanze. Il fronte del business travel, che è nuovamente in progresso e nuovamente in crescita, e questo ci indica sicuramente dei movimenti economici importanti che all'interno del nostro territorio stanno facendo maturare nuovamente spostamenti per gli uomini d'affari. Poi c'è un segmento incentive che fa parte dell'area più prettamente di vacanze, all'interno del quale notiamo dei movimenti in grande progresso rispetto al 2009, che è stato un anno un pochino in sordina. E c'è un'area vacanze, quella classica dei nostri consumatori privilegiati, cioè i clienti individuali, le famiglie, che è in grande progresso e che denota un argomento principale. Gli italiani non rinunciano alle vacanze, le vacanze sono diventate un elemento imprescindibile, piuttosto modificano la loro destinazione o modificano il budget di spesa a loro disposizione, frazionandolo all'interno dell'anno in una maniera differente rispetto al passato. Vorrei sentire anche Leonardo Massa su questi argomenti, perché lo fate iniziare solo sulla crisi egiziana, non ci sembra carino appunto parlare solo della, come dire, questione problematica del momento, ma le chiedo, visto che, come dire, nell'immaginario collettivo la crociera è destinata solo a tasche di una certa portata, è ancora così? Ma guardi, rispondo prima alla domanda sulla crisi. Io credo che la crisi, sono ormai un paio di anni che continuiamo a sentire parlare di crisi, ma nel turismo, forse anche quattro. Esatto, ma nel turismo, per quello che riguarda le crociere, noi in particolare, ha rappresentato una grande opportunità. Come diceva prima Carella, la crisi ha dato l'opportunità agli italiani di imparare a destagionalizzare il bene vacanza, e per un prodotto come il nostro, offerta fissa, perché la capacità delle navi è la stessa, indipendentemente che sia il pieno Ferragosto o sia ottobre o novembre, beh, questa è stata un'opportunità straordinaria. Infatti il fenomeno degli ultimi tre anni è di un'azienda che continua a crescere del 20-30% l'anno, MSC Crociere, ma cresce perché? Perché gli italiani vanno in crociera nel Mediterraneo 12 mesi all'anno. E questo, l'accelerazione di questo fenomeno, è in parte legata anche all'argomento crisi. Cambia il budget delle famiglie, magari i 4.000 euro ad agosto non si possono spendere, sono ben contento di far perdere ai figli la settimana di scuola ad aprile e magari trovo anche meno caos nelle destinazioni e vado in vacanza. Quindi si fa la bassa stagione. Esatto, un'accelerazione fortissima per quella che è la destagionalizzazione, e credo che questo sia un bene per il turismo. C'è una domanda per lei da parte di un ascoltatore che tocca il tema dell'Egitto e della Tunisia, la faccio fare subito a Franco, non so se riusciamo a rispondere perché fra un po' dobbiamo andare in pausa, lo sentiamo però subito. Franco da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ci dica tutto. Niente, io volevo chiedere proprio al suo ospite della MSC, perché ho dovuto, stavo lì per prenotare per la gita del Mediterraneo verso la nave Splendida, e faceva giusto la tappa verso Tunisia, e lì ho dovuto stringere un po' i denti e rinunciare alla situazione, perché sappiamo tutti com'è la situazione. Ho fatto altri viaggi con la MSC e potevo fare lo stesso con la Costa Crociera, Entrambe sono due linee favolose perché sì, vabbè, adesso dire. Franco, non decantiamo troppo, ci racconti un po', perché sennò penseranno che abbiamo fatto questa trasmissione per una grande iniziativa pubblicitaria. Ci dica, quindi il tema qual è? Insomma, non si è lasciato convincere perché aveva... Al suo ospite vorrei chiedere se, in poche parole, se rinunciano un po' a spiacevole anche la cosa a dirla, un po' alla Tunisia e limitare un po' più indietro della Tunisia, che ne so, la Malta o qualcosa di simile, sempre. Va bene, allora aspetti lì. Franco, grazie, le rispondiamo dopo la nostra pausa, intanto invito gli altri ascoltatori a chiamarci all'800 24 0024, a scriverci al 349 238 6666, a tra pochissimo. Una puntata molto movimentata oggi di Salva Danaio, che stiamo conducendo in diretta dalla Fiera di Milano, dalla BIT, dalla Borsa Internazionale del Turismo. Peraltro ci saranno molte trasmissioni di Radio 24, noi inauguriamo, ci fa piacere. D'altronde Radio 24 è la radio ufficiale di questa manifestazione. Ci ha raggiunto nel frattempo, qua veramente sembra esserci una festa negli studi allestiti di Radio 24 per la Fiera di Milano, appunto per la Borsa Internazionale del Turismo, anche Marco Cisini, direttore generale di Hotel Plan, benvenuto anche a lei. E grazie. Adesso sistemiamo anche un po' i microfoni, le faccio un po' la cronistoria del primo quarto d'ora di trasmissione. Abbiamo parlato di crisi, di come vi ha investito, ma soprattutto di come ha investito le famiglie e di quelle che saranno le scelte di vacanza che faranno quest'anno. Ci sono già delle domande degli ascoltatori che adesso gireremo anche ai nostri operatori, ma eravamo rimasti, Leonardo Massa, MSC Crociere, alla questione tunisina. Dovevamo risolvere il dilemma dell'ascoltatore precedente. Innanzitutto ringrazio l'ascoltatore per aver già fatto crociere con noi, e per quanto riguarda l'argomento Tunisia, noi abbiamo fatto un comunicato in cui, in caso la situazione per la data di partenza, stiamo parlando comunque da aprile in poi perché al momento non abbiamo partenze sulla Tunisia, non fosse ritornata nell'assoluta normalità e con l'assoluta garanzia per i passeggeri di sicurezza, avremmo proposto delle alternative come scali, ne abbiamo più di una, andremo a valutare nel momento in cui ci troveremo ad aprile a dover scegliere. Trovo però sbagliato da parte dell'ascoltatore non prenotare la crociera, perché poi di fatto l'itinerario è un itinerario di 7 giorni o di 11 notti ed eventualmente solo uno scalo, quindi parliamo di 8 ore che potrebbe essere sostituito. Quindi perfetto, ritorni in agenzia, ritorni a prenotare. Va bene. Allora, Nardo Filippetti, presidente di Eden Viaggi, i suoi colleghi che sono qui mi hanno suggerito di trasferire questa domanda a lei. Molti ascoltatori stanno lamentandosi, tutti coloro che frequentano la Sardegna, sono tanti gli italiani insomma che decidono di passare le vacanze, l'estate, le nostre splendide spiagge appunto della Sardegna. Come mai i traghetti hanno dei prezzi raddoppiati o triplicati? Il turismo sardo naturalmente ne soffre. Tutto questo è riconducibile alla crisi della Tirrenia? Sì, sembra che sia dovuto tutto a questo, in quanto non sono ancora usciti i listini ufficiali della Tirrenia, perché sembra essere un'azienda statale che possa avere interessi di vendita o di acquisto da parte di altre compagnie di navigazione, e sicuramente non vogliono dare a bloccare oggi i prezzi per un eventuale acquirente il quale si troverebbe con un budget diverso da quello che avrebbe potuto programmare. Non essendo ancora uscito la Sardegna, la Tirrenia, le altre compagnie i prezzi dovevano metterli sul mercato. È vero anche che i prezzi erano notevolmente sotto costo negli ultimi anni, speriamo che non eccedano, perché la Sardegna è una delle destinazioni più ambite e richieste dagli italiani, come l'Italia mare tutta, che ormai gioca più dell'80% delle quote del mercato italiano o dei vacanzieri italiani che vanno in Italia. E il traghetto e il trasporto è fondamentale per le famiglie, soprattutto con le agevolazioni che hanno sempre dato, con a non far pagare magari la macchina e piuttosto che dare i passaggi punti gratuiti. C'è un ascoltatore che vorrebbe intervenire, adesso non credo che lo faremo intervenire perché non è esattamente a tema, ma si chiedeva perché qualcuno non si occupa anche di chi fa le vacanze in camper. Non credo che questo sia un tema che appassioni i tour operator, appunto, e gli operatori del settore che sono qui con me, ma magari gli organizzeremo una puntata a parte. Detto questo, Marco Cisini, Hotel Plan, come vi presentate alla BIT? Questo è una manifestazione dove gli operatori del settore si incontrano, si confrontano, ma c'è anche la vetrina per il consumatore finale. So che voi vi siete inventati un prodotto che si chiama portata di tasca. quindi insomma della crisi tra le famiglie siete consci e consapevoli? Certamente, per noi evidentemente riuscire ad essere versatili in base alle domande che arrivano dal mercato è una funzione primaria. Non posso ignorare che la nostra azienda predilige un certo tipo di qualità e quindi anche quando noi parliamo di essere a portata di tasca siamo indubbiamente prioritariamente concentrati su quello che può essere l'equilibrio tra la qualità e il prezzo. Credo che viaggiare oggi... Quindi questo equilibrio nel 2011 come l'avete trovato? Come lo Ma l'abbiamo proponendo? Trovato più in forma di quanto forse ci si possa evidentemente immaginare che sia, perché in questo momento il viaggio resta comunque ancora una priorità al quale l'italiano sembra fortunatamente, peraltro, non rinunciare con facilità e conseguentemente ce ne accorgiamo dal fatto che destinazioni esotiche particolarmente ambite in questo momento come l'Oceano Indiano e altre aree del mondo come i Caraibi e in particolare l'Oriente stanno avendo delle performance altamente al di sopra delle aspettative, e questo proprio perché le persone evidentemente hanno trovato attraverso le offerte che proponiamo, non solo Hotel Plan, un equilibrio tra quello che è l'offerta e l'aspettativa e le potenzialità del mercato di oggi. Allora Enzo Carella, UVET Travel Network, così mentre sentivo Cisini stavo pensando alle due o tre domande da fare a lei, ma mi è venuto in mente, leggendo una riflessione di un'ascoltatrice, di un ascoltatore, Max, un ascoltatore, al 349-238-6666, che dice: sono breve, single con un bimbo piccolo, pagare due quote in tutti i viaggi e nelle crociere effettivamente a volte è un po' troppo, adesso che si stanno anche prendendo in giro tra di loro. Detto questo, no, mi è venuto in mente che il vostro gruppo, così come anche gli altri in realtà, stanno proponendo da qualche anno a questa parte in maniera sempre più diffusa il viaggio su misura. Anche voi mi pare che siate specializzati in questo, in cosa consiste? Perché anche questo io lo immaginavo come un prodotto fatto solamente per chi può permetterselo, perché studiare un itinerario apposito per una persona, per un gruppo di persone, credo costi un po' di più, invece non è così? Ma nella realtà il viaggio su misura non si riferisce necessariamente ad un'entità di spesa elevata, il viaggio su misura è una filosofia, è una rappresentazione di esperienze di vacanza e quindi per una rete di agenzie come la nostra è una priorità, in quanto il nostro core business è proprio quello di ascoltare i clienti e provare a costruire e a recuperare gli ingredienti giusti per costruirgli la vacanza su misura. Non è una questione di costi, è una questione proprio di attitudine e di attenzione al consumatore nel saper scegliere, per saperlo ascoltare, saper scegliere per lui gli elementi che più lo soddisfano. Ma il su misura esattamente cosa significa? Una persona viene da voi e vi dice: io voglio fare questo itinerario, voglio partire da qua, arrivare là facendo queste tappe, quindi voi li organizzate per ogni città, per ogni luogo appunto che vuole visitare, la sistemazione. Non necessariamente si parte da quel punto di vista. Nella realtà molte volte si tratta di consumatori che non desiderano acquistare dei pacchetti preconfezionati, ma che hanno dei desideri che non vengono rispecchiati dai prodotti già sul mercato, e quindi ascoltandoli e in collaborazione con i fornitori tour operator si riescono a costruire degli itinerari adatti a loro, e non solo degli itinerari, delle esperienze di vacanza giuste per loro. Molte volte vogliono entrare in contatto con la cultura locale, con l'enogastronomia, con i sapori del luogo, e non si accontentano di una vacanza mare. Dino Da Lucca, buongiorno. Apriamo buongiorno. La parentesi dei bambini. Sì, salve. Avrei un paio di domande, cerco di essere breve, per il responsabile MSC, che siamo responsabili MSC, sì. Non ho capito male. Ecco, noi abbiamo in mente di fare una crociera ad agosto, zona Grecia, e siamo un gruppo di 9 persone con 2 bambini che hanno 1 anno e mezzo. Tutto volevo sapere se consiglia una crociera anche a famiglie che hanno bambini così piccoli, e cosa offre la MSC, a parte il fatto che i bambini non pagano, questo ho già visto, ma come servizi, il cibo, i lettini e così via. Questa è la prima domanda. La seconda è: a volte sui cataloghi ci sono delle offerte particolari prenota prima con delle alte scontistiche, però non c'è sì, mai scritto. Infatti, ha fatto bene ad introdurre questo tema, sì. Però non c'è mai scritto quanti giorni prima dobbiamo prenotare. Allora, è uno specchietto per l'allodole, e poi uno va in agenzia e non c'è mai questa offerta. Benissimo, guardi, oppure, faccio interrogo tutti su questo, Dino, grazie. Cosa, sempre questi, magari sono reali, si trovano anche ad esempio in, se uno è un abbonato Telepass Premio e così via, però spesso se uno va a leggere le edizioni piccole c'è scritto esclusa l'alta ed esclusiva stagionalità, magari non c'è scritto esclusa la super che è in mezzo. Cioè, sono reali questi sconti, oppure quando uno può va a chiedere magari non ci sono? Allora, mamma mia, qua quante cose abbiamo messo insieme. Dino, cominciamo con i bambini e la crociera, Leonardo Massa. Allora, bambini e crociera, per le crociere tutto l'anno, 12 mesi all'anno, tutte le partenze, i bambini in camera con i genitori fino a 18 anni viaggiano gratuitamente. Fino quindi, a 18 fino anni? Fino a 18 anni, però. Da 0 a 18 anni, in camera, in camera con i due adulti, su tutte le partenze, ah, tutto però, l'anno. Ah, però ecco, il 17enne deve dormire con mamma e papà. Cioè. In camera con i genitori viaggiano gratuitamente, questa è la prima risposta. La seconda, prima di rispondere all'ascoltatore, è il single, la famiglia monoparentale, cioè il genitore, quello che aveva chiamato prima per la domanda a Carella, il genitore con uno o due figli. Beh, abbiamo una tariffa ad hoc, non è vero che con un genitore con un figlio deve pagare due quote, ma con MSC un genitore con un figlio paga una quota e mezza, un genitore con due figli paga una quota e mezza e il secondo bambino gratuito. Quindi insomma impegnarsi un po' di più nella ricerca dell'offerta, che è variegatissima, riguarda non solo i gruppi che abbiamo qui questa mattina, ma tutti quanti. Per quanto riguarda l'offerta bambini a bordo delle navi, abbiamo menù dedicati a bordo nei ristoranti ad hoc per i bambini, abbiamo un mini club con assistenza quasi 24 ore su 24 per bambini anche qui dai 0 ai 18 anni, diviso quindi per fasce di età, abbiamo escursioni e attività a bordo studiate ad hoc, certo, per i bambini. Quindi è evidente che la famiglia è uno dei nostri target di riferimento in quell'ottica di cui dicevamo prima, la destagionalizzazione in alcuni periodi è particolarmente strategica, penso proprio al periodo estivo, quindi il mio consiglio è prenotare una crociera, va benissimo anche con bambini così piccoli. Mamma mia, qua abbiamo intanto un la domanda sul pricing, cioè sulla validità l'offerta dell'offerta, prenota, cioè diciamo la vacanza prenotata con largo anticipo. Esatto. Assolutamente non poi è chiedo anche a voi. Assolutamente non è uno specchietto il Lodole, ma oltre il 70% del nostro prodotto viene prenotato appunto ai prezzi riportati al catalogo come prezzi più bassi. La volontà di non mettere una data è proprio legata al fatto. Prenotando adesso una, non mi ricordo i nomi delle vostre crociere, per agosto per esempio, che tipo di abbattimento di prezzo c'è? Beh, si arriva anche al 20-25%, okay. Però la risposta all'ascoltatore, perché non mettere una data? Beh, perché la logica che abbiamo voluto seguire è quella del riempimento delle navi e non della data fissa. Noi usciamo con i programmi 2012 già adesso qua in bit, quindi con un anno e mezzo di anticipo. La logica di non voler mettere la data è proprio legata invece a una logica di load factor delle navi. Allora, siamo pronti per i suggerimenti per chi è in viaggio? Allora ci fermiamo per un minutino, poi andiamo appunto proprio al quanto si può risparmiare prenotando, con quanti mesi di anticipo, magari facciamo un po' di scaglioni, a tra poco. E rieccoci con Salva Danaio per l'ultima parte del nostro programma, oggi in diretta dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Peraltro ci sono degli ascoltatori che ci stanno anche così sollecitando, non so se ce la faremo a fare delle riflessioni su Lampedusa, la questione degli sbarchi che sta vivendo la nostra bellissima isola, per l'ennesima volta siamo in piena emergenza, e insomma Daniela da Viareggio, quindi da tutt'altra parte d'Italia, in una località peraltro anche molto bella, si chiede perché non si parli abbastanza della crisi turistica che colpirà Lampedusa. Magari vediamo se riusciamo a fare una riflessione anche su questo. Noi oggi ci occupiamo soprattutto di famiglie. Allora, Nardo Filippetti, presidente di Eden Viaggi, per esempio, il suo gruppo in che modalità consente una prenotazione molto anticipata delle vacanze e con che tipo di risparmio? Da diversi anni abbiamo attuato, come diceva fra l'altro anche Leonardo di MSC, che l'agevolazione per avere prezzi convenienti non è dettata ad un periodo o ad un tempo, ma è dettato a un concetto di che quella settimana, in funzione della domanda, il prezzo aumenta, per cui chi prima arriva può prenotare a condizioni favorevoli. Le condizioni di agosto, come di settembre, come qualsiasi altro mese dell'anno, ci sono agevolazioni dai 25 al 50, addirittura anche al 60% di sconto in certi periodi e in certi periodi di partenza, in certi periodi di protezione. Quindi non si può legare ad una data fissa. Questo qui era un modo di fare di alcuni anni fa, che si diceva se si prenota entro il, esempio, 28 di febbraio c'era uno sconto. Oggi lo sconto c'è sempre. Se per esempio la settimana di giugno non è stata riempita come si pensava poterla riempire per una questione, certo, appunto di costi aerei, di trasporto e tutto, allora il prezzo rimane conveniente anche fino all'ultimo giorno. Potrebbe. Certo, una sorta di, anche perché ecco, la prenotazione con largo anticipo, Enzo Carella di Uve Travel Network, è un po' l'altra faccia della medaglia del last minute, anche se vedo che poi in realtà possono mettersi insieme un po' le due modalità. Ma devo dire che negli ultimi anni è stata molto apprezzata dai consumatori, sicuramente più che last minute, che c'è stata un'inversione di tendenza forte verso la prenotazione anticipata. E i consumatori hanno compreso che prenotare con anticipo vuol dire in molti casi approvvigionarsi del prodotto migliore al costo migliore, alle condizioni di servizio migliore, quindi l'opportunità di scelta diventa più ampia e un consumatore non vuole rinunciare a questo. Per contro, il last minute è un elemento del mercato innegabile, per tutti coloro che non riescono a programmare la vacanza con largo anticipo si ritrovano delle buone opportunità di prezzo, ma non sempre delle opportunità di vacanza esattamente consone a quello che desideravano all'inizio. Voglio rispondere ad un ascoltatore che non deve fare domande a voi, ma gira una riflessione non tanto simpatica nei confronti dei noi giornalisti, perché Gio da Milano si chiede: è vero la storia che a voi conduttori di Radio 24 vi danno pacchetti gratis perché siete al beat? Se è vero, fate schifo, Gio. Io le posso assicurare che non ci danno un bel niente, ci mancherebbe altro, perché li dovremmo rifiutare con grande vigore. Quindi stia tranquillo che almeno dal mio punto di vista io sono assolutamente serena su questo. Scusate, ma qualche volta certe cose mi fanno un po' dispiacere, insomma, questi pensieri degli ascoltatori. Allora, a che cosa andiamo adesso? C'erano degli ascoltatori che si chiedevano, Leonardo Massa, sulle crociere, se funziona tutta l'assistenza sanitaria Italia regolarmente. Sì, lo so che Cisini è un po' indispettito, dice: mi avete fatto venire qua, però adesso vengo da lei anche. L'assistenza sanitaria a bordo è... Su tutte le nostre navi non solo c'è assistenza sanitaria, medico di bordo, ma c'è addirittura su tutte le navi in piccolo ospedale, dove è possibile addirittura eseguire non solo medicazioni primarie, ma addirittura operazioni. Inoltre su quasi tutte le navi c'è la possibilità di atterrare con l'elicottero. Da buon uomini di mare, però, questa eventualità teniamo a scongiurarle. Cisini, Hotel Plan, sì, la formula del prenotare in anticipo, voi avete il prima prenoti meno paghi, tra l'altro quantificate anche molto dettagliatamente quante riduzioni si possono ottenere. Ci sono alcuni ascoltatori che chiedono perché si continua ad andare avanti da parte di tutti i tour operator in queste penalizzazioni per i single che pagano sempre uno sproposito per ogni tipo di vacanza. Ecco, Massa che dice che non è vero per le crociere, invece per quello che vi riguarda. Ma guardi, la complessità effettivamente è un tema che mi tocca molto da vicino, dico già. Sì, ma guardi, può toccare tutti nel percorso della vita, effettivamente esatto, siamo tutti candidati in un percorso a essere da soli, single. Certo. No, guardi, effettivamente la difficoltà di gestire il single è dettata essenzialmente dall'idea della gestione del prezzo della camera, che molto spesso prescinde dal numero di componenti che la occupano. Pertanto in quel caso è molto difficile riuscire ad identificare il vantaggio reale che si può riconoscere. Ciò nonostante si tenta a più riprese di offrire qualcosa di adeguato. Infatti nel caso specifico della nostra azienda abbiamo delle proposte per single. Evidentemente però queste sono in contrasto tante volte con le ambizioni di altissima stagione, dove evidentemente si predilige una vacanza, soprattutto per la tipologia di prodotti che noi offriamo, per coppie o per famiglie. Però io ci tenevo a aggiungere una cosa sulla questione dell'advance booking. Credo che ci sia un aspetto sociale non indifferente da valutare, perché la popolazione dei consumatori si divide in due grandi estremi: quelli che prenotano veramente un grande anticipo, quelli che prenotano sotto data. Entrambe le culture vengono premiate perché hanno a disposizione un vantaggio di prezzo, però indubbiamente, dato che ognuno di noi ci sarà tende anche una fascia intermedia di comportamento, esatto, certo, a programmare la propria vita con grande anticipo, i penalizzati sono quelli che pensano continuamente a quando poter fare una cosa senza deciderlo mai. Diciamo che tutti quelli che decidono sono premiati in qualche modo, che sia l'ultimo momento o quello prima. Quelli che vivono nell'incertezza, tutto sommato, non ricevono un grande premio, perché in qualche modo è difficile colmare le esigenze di tutti. Allora, no, un attimo solo, tra l'altro io ho bruciato la domanda di Guido da Gallarate. Guido ha sentito la nostra considerazione sui single e l'ho fatta fare ai nostri interlocutori. Guido. Sì, sì, lo sto sentendo, lo sto ascoltando. Buongiorno, signora Isabella. Sì, sì. No, niente. Isabella. Rosciani, no? Sì. Rapidissimo, perché stiamo chiudendo. Sì, la no, prego, grazie. Io volevo sapere appunto questo problema, perché non so, io e mia moglie, noi non abbiamo figli, siamo anche sfortunati in questo caso. Ah, e allora non perché, è single. Perché non abbiamo l'opportunità forse di agevolare quelli che hanno i figli. Quindi, però a volte per problemi di lavoro, per problemi proprio personali, forse qualcuno di noi due vorrebbe fare qualche viaggetto, ma ci ritroviamo sempre con questo handicap della camera single, ecco. È solo quello, insomma, che ci sentiamo. Lo so, credo. Pensi lei che io sono single davvero, Guido? Pensi pensi un po' quanti problemi ho. Comunque, allora, Nardo Filippetti ed Enviaggi, vi chiedo una risposta telegrafica, perché so che vi state divertendo molto, ma stiamo quasi chiudendo. No, è piacevole, ci incontriamo e parliamo poi del nostro lavoro, delle nostre cose, infatti, quello che viviamo poi quotidianamente. Ma la risposta sul single rispetto al bambino di 18 anni, per cui un bambino adulto, è che il modulo camera per l'albergatore, oggi il costo del mangiare è diventato uno dei costi più bassi, ma se la camera viene occupata da uno o da tre persone, sempre per due, fisso mediamente, per il questo per lei, è un po' il senso. No. Poi dentro ci sono una serie di variabili, ma per dare una macro così risposta a che il bambino, ma come, fino a 18 anni io non pago il mio figlio, bene, non paga. Come quando è solo, avendo due letti o avendo una disponibilità, paga magari per due, adesso sempre per due. Cioè, ma... io devo chiudere, ma Massa, so che lei muore della voglia di raccontarci la sua crociera per single, immagino che l'abbiamo già fatta. Non è la crociera per single, ecco. Ma nel 2011 abbiamo inserito per i single una tariffa per cui i single con MSC Crociere non pagano supplemento. C'è solo una limitazione di numero di camere disponibili. Benissimo. Ma su tutte le navi, tutte le partenze, single con MSC non bisogna proprio avere la pazienza di guardarsi un po' intorno, come per tutte le cose, studiare bene l'offerta disponibile. Vi devo salutare tutti, adesso ho la mia rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Continuiamo a spiegarvi le parole della previdenza in collaborazione con l'INPS. La parola di oggi, anzi il concetto di oggi, è requisiti e pensioni di anzianità per il 2011. Almeno 40 anni di contributi versati a prescindere dall'età anagrafica per la pensione di anzianità liquidata nel sistema retributivo. Per i lavoratori dipendenti, 60 anni di età anagrafica e almeno 36 anni di contribuzione, la cosiddetta quota 96, per la pensione di anzianità nel sistema retributivo. A partire dal 2013, i lavoratori dipendenti, per poter utilizzare il sistema delle quote, dovranno aver compiuto 61 anni di età e la quota salirà a 97. Per i lavoratori autonomi, la quota 97 è già in vigore a partire dal 2011 e con il mese di gennaio 2013 sarà necessario aver compiuto 62 anni di età con 36 di contributi, raggiungendo così quota 98. E allora continuano intanto tante considerazioni degli ascoltatori, bisognerebbe andare avanti almeno per altre due ore. Massa, c'è un ascoltatore che dice che ha quattro figli sotto i 18 anni, quindi dovete cominciare a studiare delle cabine extra large, però volevo anche leggere una domanda rapidissima al nostro appunto presidente di Eden Viaggi, perché c'è un ascoltatore, Massimiliano, che dice che ha prenotato un viaggio Eden in Egitto la settimana prima che succedesse tutto quello che sappiamo, dovrebbe partire il 13 marzo, si chiede perché il gruppo non permette di cambiare destinazione senza penale, si deve muovere con un bambino di 4 anni, quindi non si fida più. In 20 secondi, presidente. No, probabilmente Nardo, c'è una cattiva informazione, c'è stato tutto di più, perché con lo sconsiglio, essendo l'Egitto una delle mete più gettonate, le informazioni non sono sempre state chiare per tutti, noi ci assumiamo le nostre responsabilità, anche se mi sembrava che le nostre fossero molto chiare. L'ascoltatore può non solo cambiare destinazione senza alcuna penale, può cambiare anche periodo di vacanza ed inoltre tutto quanto gli può essere ridonato, anche l'acconto che ha dato gli può essere ritornato. Magari glielo diciamo personalmente. Massimiliano si è perso questa parte del programma, grazie a Leonardo Massa, Nardo Filippetti, Marco Cisini e Enzo Carella per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani in diretta da Milano, poi la bit prosegue, buona giornata a tutti.